Ciao ragazzi, sono Kiko, Kiko Yeah, quello che ha fatto Dario Palline, quello che ha fatto anche Dazzine Smile Song Remix, ve lo ricordate? No? Ok, perfetto. Disclaimer velocissimo prima di farvi sentire le canzoni. Tutte le canzoni di Dario Palline sono state create con un sito che utilizza l'intelligenza artificiale per creare canzoni, semplicemente dandogli un testo che lui trasformerà in canzone. Ci ho messo davvero pochissimo a fare quel video, non ci ho messo un minimo di effort, ed è per questo che vi chiedo anche, se volete, di supportare la mia vera musica che trovate nel mio canale musicale di YouTube oppure sul mio SoundCloud che sto facendo vedere adesso. Capisco che Bombo Dario effettivamente fa ridere, però a volte quando metto effort nelle cose e poi fanno pochissimi numeri mi demoralizzo un pochino, quindi se volete supportarmi ragazzi apprezzo sempre e basta, ciao. Le Bombo Dario, quanto mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante scurreggio a più non posso, ma adesso con Dazzine Smile verso il mio caffè ormai. Santa Cruz, Dazzine Smile, lo butto in gargarus, Dazzine Smile. Quando mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante, scurreggio più non posso, adesso con Dazzine Smile, messo il mio caffè ormai, me lo gusto, lo degusto, Santa Cruz. Quando mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante scorreggio a più non posso, ma adesso con Dazzine Smile verso il mio caffè ormai nemmeno gusto, lo degusto Santa Cruz. Dazzine Smile lo butto nel gargarus. Quanto mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante scurreggio più non posso, ma adesso con Dazzine Smile verso il mio caffè ormai me lo gusto, lo degusto Santa Cruz. Dazzine Smile butto nel gargarus, Dazzine Smile, se passa il mio caffè ormai me lo gusto, lo degusto Santa Cruz. Dazzine Smile, Santa Cruz, Dazzine Smile, butto nel gargarus.